piace leggerti per ore ed ore, ah, cercando sulla schiena un errore, ah, mi piace leggerti per ore ed ore, ah, cercando di capire il tuo sapore. Giochi con le parole, le menti dritte come le candele, cascano i minuti e le parole di colpo sono vele. Giochi con le parole, le menti in fila pesando nell'umore.